so più cosa son, cosa faccio. Ora di fuoco, ora son, ora di ghiaccio. Ogni donna cangia di colore, ogni donna mi fa palpitar. Ogni donna mi fa palpitar.